E quindi l'indirizzo dove scrivere per segnalarci iniziative. O per mandarci le vostre autoproduzioni. Такси, но нам нечем платить, и нам не на чем ехать. Мы гуляем одни на нашем... Il numero di telefono è sempre lo stesso. Ormai da 40 anni. Lo 0649 1750. Ночь гуляли всю ночь на утра. Закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина. И она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Allora, lo dicevamo a inizio trasmissione, una delle modalità per sostenere Radio Onda Rossa e è quella, insomma, che preferiamo di più, è quella di partecipare alle iniziative di autofinanziamento che spesso organizziamo qui, appunto, con la redazione di Radio Onda Rossa. Però capita che ascoltatori ed ascoltatrici autonomamente decidono, insomma, di fare un'iniziativa, appunto, a sostegno della radio. Abbiamo in collegamento Gianluca. Ci sei? Ciao. Ciao. Sì, ciao a tutte, ciao a tutti. Ok, e niente, no, lo stavamo dicendo, sei uno degli organizzatori che, appunto, ha ideato questa iniziativa. Sì. Allora, sì, no, innanzitutto, siccome abbiamo mandato lo spot, però lo ripetiamo, insomma, dove si svolgerà, dici un po' di cose di questa iniziativa. Allora, la serata si svolgerà sabato prossimo, il 25, al 360 gradi, un locale che sta lì a San Lorenzo, insomma, anche vicino alla vostra sede, un locale storico di Roma, a cui ci faceva piacere, insomma, coinvolgere anche in questa iniziativa. So che già altre volte sì. Poi avete avuto modo, insomma, posto che conosciamo, poter... sì, già ho ospitato diverse iniziative a sostegno della radio. Esatto, noi praticamente avevamo una serata concordata con loro per il sabato 25 e ci siamo detti, visto che ci faceva piacere, insomma, sostenere e contribuire alla radio, ci siamo detti, vabbè, perché non proviamo a fare questa iniziativa di metterci d'accordo con il locale per organizzare una serata in sottoscrizione della radio con gli altri amici con cui abbiamo organizzato questa serata. E quindi niente, è nata questa idea di dedicare questa nottata di musica con questi amici e a voi, alla radio, sperando che, appunto, possa essere un contributo sia a livello economico ma anche a livello insomma di sensibilizzazione, che poi possa anche insomma in qualche modo stimolare altra gente, altre persone a fare lo stesso, perché appunto io quello che volevo anche sostenere e portare avanti come discorso è quello di portare avanti le iniziative proprio dal basso. Io poi vabbè, io ho dato anche questo nome alla serata, dal basso live, proprio per sottolineare il fatto che bisogna prendere anche l'iniziativa noi stessi, insomma, non solo lasciare che ci siano un po' che veniamo trasportati, insomma, e cogliamo le occasioni che ci capitano, ma crearcele pure. E quindi avevamo. Sì, sì, no, poi, poi lo diciamo spesso da questi microfoni, soprattutto in questa trasmissione, il sottotesto è un po' quello che tu dici, non, il fatto di non delegare, appunto, di partecipare attivamente, insomma, ad un'iniziativa, è una cosa che ci fa molto piacere. Già l'anno scorso siamo stati ben abbracciati da vari collettivi, varie individualità che hanno deciso di pensare ad iniziative di autofinanziamento per la radio. Ci fa piacere, sì, sì, insomma, sì, no? Speriamo di non essere gli ultimi, certo, di certo, poter certo. dare un là a queste iniziative. E insomma, allora, quindi niente, insomma, vabbè, dimmi. No, dicevo, i gruppi che suoneranno sabato, ce li vuoi annunciare? Allora sì, sabato suoneranno i tre gruppi. Io avrei voluto anche organizzare una cosa un po' più corposa, però diciamo ci siamo un po', diciamo, andati avanti con l'organizzazione un po' all'ultimo, quindi alla fine abbiamo chiuso per questi tre gruppi, che sono rispettivamente Alma Irata, Conqueror's Worms e Il Terzo Stato. Sono due band, le prime due che vengono da Roma, Alma Irata e Conqueror Worms, mentre Il Terzo Stato ci ha fatto la cortesia di venire addirittura da Latina per sostenere la radio. Loro sono stati contentissimi, appunto, quando gliel'ho detto di partecipare. Anche questo, insomma, è una buona notizia, sapere che ci sono persone che si prendono la briga di venire anche da fuori, insomma, a sostegno della radio. E quindi insomma mi ha fatto anche molto piacere questa cosa. E poi io con loro avevo già avuto modo di fare una serata qualche anno, l'anno scorso, due anni fa, ora non ricordo esattamente, quindi mi piacquero molto sia a livello musicale che come insomma messaggio della loro musica, quindi mi faceva piacere coinvolgerli. Senti, ma dimmi. Sì, dico, tu quindi non sei nuovo, insomma, nell'organizzazione di serate musicali, non so. Sì, vabbè, insomma, il suono in una di queste tre band negli Almerata, quindi diciamo faccio serate anche. Avrai il doppio ruolo, insomma, da organizzatore e musicista. Esatto, poi mi piace appunto anche organizzare, provare a prendere in gestione, provare a prendere vari gruppi e cercare di metterli insieme per creare anche una rete che poi non sia solo quella appunto di andare a suonare e basta, ma se c'è poi una sostanza sotto, come in questo caso per la radio, è ancora meglio. Quindi diciamo, già in passato mi era capitato di organizzare appunto qualche serata di sottoscrizione. Quest'anno, visto anche i 40 anni che compie la radio, Radio Onda Rossa, mi faceva piacere farlo per voi, e poi magari appunto provare a fare anche altre cose sempre per voi, insomma, vedremo se la collaborazione soddisfa anche voi, vi piace. No, ma vabbè, senz'altro, insomma, è una cosa che ci fa un sacco di piacere. Poi ci siamo conosciuti ieri sera qui con la redazione, ci ha fatto molto molto piacere, insomma. Senti, sì, io anche questo, insomma, sì. L'opportunità di venire da voi è stato bello, insomma, avendovi sentito solo per radio, poi è solito conoscere le persone al vivo, è tutto un altro. Poi è appunto proprio questo il bello di queste iniziative, insomma, di a prescindere, insomma, dalla riuscita o meno della serata, il fatto appunto di creare connessioni e coltivare i rapporti umani, no? Certo. Senti, allora, una domanda, visto che insomma c'hai un po' di esperienza nell'organizzazione dei concerti e sei musicista, com'è il tuo punto di vista su appunto il fatto di suonare a Roma, organizzare serate, difficoltà, com'è la situazione dal tuo punto di vista? Beh, non è semplicissimo, insomma, poi la situazione a Roma ultimamente a livello di locali e cultura la conosciamo tutto, voi tutti, insomma, la vostra radio da questo punto di vista fa anche una buona informazione al riguardo. Stanno chiudendo moltissimi posti in cui si poteva fare musica, diciamo, un po' più liberamente rispetto a quelli che poi magari sono gli standard commerciali che vanno più o meno di moda, che insomma anche quello è legittimo, però diciamo si sono un po' ristretti i posti in cui poter sentire musica un po' più che non sia insomma solito cantautorato, le cover band che insomma hanno tutta la legittimità di esistere, però diciamo appunto adesso è un po' più difficile per le band poter organizzare in alcuni locali. C'è anche, è anche vero che insomma qualche locale sta mantenendo insomma sta mantenendo botta, quindi qualcosa si riesce ancora ad organizzare. Insomma lì a San Lorenzo ci sono un po' di locali, qualcuno è rimasto insomma che vale la pena secondo me, tra cui 360 gradi appunto con cui faremo questa serata, ma anche il Wishlist, insomma un altro locale che sta lì vicino, insomma, che permette insomma di fare musica in maniera abbastanza libera. E per organizzare le serate insomma c'è qualche difficoltà, nel senso che come al solito non tutti tutte le persone che gestiscono i locali insomma guardano all'aspetto diciamo culturale artistico, vabbè questo è un discorso un po' vecchio forse. Sì, no, quindi... vecchio attuale anche generalizzato, insomma vabbè, sì quindi non è semplicissimo, ma ci si prova, insomma l'importante è non darsi mai per vinti e continuare a insistere, perché poi alla fine se c'è il piacere di farlo vale sempre la pena. Va bene, senti, allora io direi di, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, insomma di rinnovare l'invito a questo sabato. Volentieri, sì, io invito tutti gli ascoltatori insomma a venire sabato 25 con un piccolo ingresso in sottoscrizione della radio, solo 5 euro, andranno appunto devoluti solo alla radio. Poi il 25 è una giornata molto particolare per Roma perché insomma sono tutte le varie manifestazioni, quindi magari dopo le manifestazioni se vi volete venire a sentire un po' di musica e chiacchierare sia con noi che con voi della radio, che spero che ci sarete, potete venire lì al Wishlist, scusate, a 360 gradi, okay. A San Lorenzo, in via degli Equi 57, se non ricordo male, 56, ora non ricordo esattamente. Oddio, vabbè, insomma, via degli Equi non è lunghissima, c'è lo spottino, lo rimandiamo, no, via degli Equi 57. 50, ok, perfetto. Ok, e va, quindi sì. Grazie a voi dello spazio, insomma, a noi fa piacere, insomma. Grazie a voi, insomma, di averci pensato, di aver organizzato questa iniziativa. E noi niente, ci vediamo allora al 360 questo sabato. Perfetto. Va bene, allora, okay. Niente, ok, ci vediamo questo sabato. Io nel frattempo mi preparo un po' di brani dei gruppi che parteciperanno questo sabato e di nuovo a sabato sera. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, un abbraccio. Ciao. Нам нечем платить и нам не на чем ехать. Мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка. Смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Allora, quindi, come anticipato, passiamo tre brani, appunto, dei tre gruppi che parteciperanno questo sabato all'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Partire e loro da Roma sono dei Conqueror Worms. Questi sono i Conqueror Worms da Roma con la loro Black Lady. Sabatiana al punto giusto, che è sempre cosa saggia e giusta, appunto. E loro invece da Latina, il terzo stato. E questo è il loro manifesto. O meglio, il pezzo è noi, dal lavoro il manifesto. Dai! Ci porta a noi, siamo qui per questo. tu. Certo per le vostre brutte facce, sumate noi, facciamo girare l'economia, il prodotto interno lordo aumenterà, con i soldi per la droga, per la figa e la tua libertà, in accordo con le nuove normative, ma noi non vi offriremo di meglio che la nostra sdegnosa rabbia, l'industria del disimpegno non ci appartiene. Su questa città, sui ipocriti e sui salottini, e facciamo le nostre coscienze, che troppo tempo non funziona più, non vi offriremo di meglio che la nostra sdegnosa rabbia, l'industria del disimpegno non ci appartiene. L'altro gruppo che parteciperà sabato al 360 all'iniziativa di finanziamento per Radio Onda Rossa sono gli Alma Irata. Qui ce li ascoltiamo dal loro lavoro Deliverance. E questo è Three Steps to Evil. Da capo. вспомогать, да во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не на чем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, отмотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Eccoci qua, sì, litigo sempre con i cursori. E quindi domani invece, mercoledì 22 marzo, c'è un'altra bellissima iniziativa alla quale, insomma, siamo ben felici di dare spazio e sostegno, ed abbiamo in collegamento una compagna. Ci sei? Sì, ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, benvenuta ai microfoni di Radio Onda Rossa. Allora, ci vuoi raccontare cosa ci sarà domani, dove, perché, tutto quanto? Sì, allora, domani allo Spazio Sociale Centro Celle Aperte festeggiamo un anno di rioccupazione. E quindi, insomma, si farà festa grande. E a un anno appunto dalla riapertura, diciamo, dello spazio e dall'aver di nuovo liberato questo spazio e restituito al territorio, faremo un festone. E quindi ci sarà, vado col programma? Sì. Perfetto. Allora, guarda, apriremo, diciamo, le porte dalle 7:30. Mm-hmm. E ci sarà un aperitivo a cura di Ergas, che è il nostro gruppo d'acquisto solidale. E alle 20 si continuerà con il nostro classico dinner buffet vegan a sottoscrizione libera. E a seguire poi ci sarà la Titubanda, che insomma è i nostri compagni che fanno musica in movimento, che ci verranno anche loro a dare una mano. E poi seguirà anche il Warner Circus, che è il nostro amico Warner, che è un ciclo giocoliere molto bravo. E tutto si concluderà con una ciclorifa, quindi la ciclofficina popolare Luigi Masetti dello Spazio Sociale ha preparato una o due biciclette, adesso non mi ricordo, che verranno messe a rifa a fine serata. Allora, vabbè, io cioè, sì. mi sembra quasi doveroso, sì. ma più che un dovere è proprio un piacere, cioè ricordare che insomma Radio Onda Rossa è molto legata allo Spazio Sociale Centro Celle Aperte, perché è stato appunto luogo di numerose iniziative a sostegno della radio, dove insomma ci siamo conosciuti un po' meglio, e quindi insomma ci sentiamo di casa. E ci fa piacere, insomma, perché anche noi siamo chiaramente legatissimi alla radio, alla nostra radio, e quindi insomma ci fa piacere sia appunto scambiare due chiacchiere adesso così radiofonicamente, sia tutte le volte che lo facciamo insomma all'interno della struttura di Via delle Rese dei 5. E insomma, che aggiungere? Innanzitutto domani numerosissimi, aspettiamo folle per festeggiare insieme, perché insomma c'è da festeggiare comunque. Ma anche io, quindi, insomma, guarda, volevo sottolineare appunto quello che stavamo dicendo noi, no? Perché poi non è che questo piacere nasce così dal nulla, è proprio che entrando allo Spazio Sociale Centro Celle Aperte si avverte uno spirito di condivisione. Io lo dico insomma per chi è all'ascolto che magari non ci è mai venuto, è veramente un'esperienza diretta di autogestione. Dal partire, non so, c'è il buffet, non c'è nessuno che serve il cibo, no, insomma. Infatti, guarda, sì, di questa, diciamo, pratica del servizio ci siamo liberati, diciamo, ci siamo liberati anche di questo, quindi ormai da più di un anno in modalità appunto fissa mettiamo un buffettone in cui ognuno si può servire, in cui ognuno si apparecchia e si sparecchia anche chiaramente, ed è a sottoscrizione libera, anche perché questo consente anche a chi insomma non ha queste grandi finanze di partecipare comunque a suo modo alla sottoscrizione, anche insomma di evitare non lo so, anche una, no, un pressario fisso che a volte ci mette sempre un po' in una situazione così di barriera. E dall'altra, esatto, esatto, e dall'altra permette anche a noi di uscire fuori dai, dalla cucina, di lasciare i fornelli e di partecipare alla serata. Insomma, fin troppe volte ci siamo sentiti magari, no, un po' troppo così, un, appunto un servizio, no, quasi un lavoro, visto che noi invece ci vogliamo sganciare, ricreare modalità che si allontanino completamente da quelle, diciamo, lavorative alle quali assistiamo ogni giorno e che pratichiamo purtroppo ogni giorno. Abbiamo insomma voluto sovvertire anche questa modalità legata alla cucina popolare vegan. E quindi sì, buffet libero, a sottoscrizione libera, come diciamo noi, però sempre libera ma anche generosa, perché certo, insomma, in questo spazio sociale non c'è reddito, nessuno prende reddito e tutto quello che entra viene reinvestito, diciamo, sia nella logistica interna che nel finanziamento di lotte esterne e nella, diciamo, nell'auto-organizzazione e nell'autogestione in generale, insomma, a seconda delle proprie tasche, chiaramente. Benissimo, allora direi che se non abbiamo nient'altro da aggiungere, non so, ribadiamo che è mercoledì 22 marzo e quindi domani festeggiamo il primo anno di rioccupazione dello spazio sociale Centro Celle Aperte, che è a Via delle Refede numero 5. E per chi insomma così è più, anche un po' più smanettone, su Facebook ci trova come Mercoledì Vegan, e altrimenti c'è chiaramente il nostro sito, che è www.centocelleaperte.org. Benissimo, benissimo. Allora, ha detto tutto, sì, brevissima. Io direi che insomma, da parte insomma mia di Radio Onda Rossa, felice auguri insomma del primo anno di rioccupazione. Vi auguriamo altri 100 anni di sovversione. E ci vediamo domani. Perfetto, okay. Ci vediamo domani. Grazie alla radio e un saluto a tutti e a tutte. Ok, un abbraccione, a domani. Un abbraccio anche a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, mentre è appena uscito il nuovo lavoro dei Carnero, dal titolo Assalto, ci ascoltiamo un paio di brani. Spreco parte 1, Spreco parte seconda. Loro sono i Carnero. Sotterrato. Allora, mentre è in uscita una compilation dei Detton Off, dal titolo Criminal Exhibition, e quindi la discografia dei Dead on Off 2012-2015, 62 tracce in CD. Qui ce li ascoltiamo dal 7 pollici Reality is Obscene. Hai visto com'è che si fa? Quella è la vecchia scuola. Allora, mentre nella scorsa puntata con Gippi di Lanterna Pirata, eccetera eccetera, non abbiamo fatto in tempo a passare la scaletta che ci aveva proposto nell'onda della calorosa chiacchierata, appunto, avvenuta martedì scorso. E tra le proposte aveva scelto i Downright, ce li ascoltiamo da capo. Qui dalla battaglia del silenzio, il ricordo che brucia piano da capo. Visto che roba? Hai visto com'è che si fa? Quella è la vecchia scuola. Già, non c'è niente come la vecchia scuola. Continuiamo con i Le Tormenta dal lavoro L'Unico Elemento. E questa è Storia del Violino. E della Rosa. Sempre da capo. And then what's that way? Invece adesso passiamo un gruppo nato all'ombra della Mole. Loro sono i Bellicosi, nati nel 1992, sciolti da qualche tempo. Però che si riformeranno, o meglio, suoneranno di nuovo insieme per qualche data in giro. La prima ci sarà a Torino il 15 aprile. Tutto gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte. Mi potrai fare ancora segreta è la location. Sempre dalla stessa parte. Hai imparato a parlare silenzio tra le parole di qualche canzone. E qui ce l'ascoltiamo con il loro pezzo Il mondo all'ingiorno. Da solo, del resto, da Torino Rock and Roll Stars. Stesso letto e vedrai, vedrai. Il tuo sorriso poco a poco sparirà. Belli così, Radio Onda Rossa. Abbiamo presentati qualche settimana fa. Loro sono gli Amphist, dal loro primo e nuovo lavoro Waking Nightmare, uscito da pochissimo. Ci ascoltiamo Strength Beyond Pain. Oh. e facciamo anche gli auguri a Peppe, appunto, degli Amphist. Bella Peppe! Classico piacione, no? In alcuni quartieri di Roma si chiama paraculo, senza offesa. Allora, mentre sabato scorso, reduci da Missione Provincia, un concerto organizzato dalla 1% Crew di Paliano, che saluto calorosamente. E niente, concerto fatto al centro di Valiano. E quindi all'interno del Bar Lazio, o meglio nel sottoscala del Bar Lazio, che sarà 5 metri per 2, tre gruppi, Placcaggio Hardcore, Social Trauma e appunto Assedio, che ascoltiamo in sottofondo. Che dire, è stato un bel delirio. Allora, noi ce li ascoltiamo tutti e tre. Un abbraccio forte a tutta la provincia hardcore. Siete meglio, eh? Culo, senza offesa. Vabbè, loro sono il gruppo più black metal del punk hardcore. Placcaggio, questo è il loro Ziggurat. Yeah. allora, a chiudere il tributo dedicato alla missione provincia. Chiudiamo appunto con i Social Trauma. Ce li ascoltiamo con la loro hit 1%. 1%, eccoci qua, un'altra sera, un'altra notte passata tra palco e sudore. Quante serate ritornano in mente, quante ferite restano aperte. Non ci pentiamo del nostro passato, di quello che abbiamo, di ciò che facciamo. Difficile a dirsi se è giusto o sbagliato, ma questo ci offre il nostro disagio. Noi ci siamo. Siamo sempre qua. Chi c'è ancora? Chi se n'è andato? 1%. Siamo presenti ancora, teste vuote. Inutile dire che un pezzo di vita. I ricordi non muoiono mai. Giù in strada, in cantina, uniti. Sangue e sudore si mischiano insieme. Sono parte di quello che sei. Passione, dedizione. E questo è il testo di 1% dei Social Trauma e 1% è la crew della Paliana Hardcore. Social Trauma 1%. Questa la passiamo in anteprima, in attesa dell'uscita del nuovo lavoro degli Zubbo. Integralisti Grind da Latina. E questa è l'anteprima, Schiavi, da capo. distruggervi. Allora, mentre invece da inizio anno l'XM24 di Bologna è ufficialmente sotto sgombero. Eh sì, perché entro il 30 giugno 2017 tutti i collettivi occupanti dell'XM24 devono lasciare vuoto lo spazio per restituirlo alla proprietà, al comune. E chissà per quali fini istituzionali. Lo trasformerà in qualcosa di nuovo. Insomma, 15 anni di attività dell'XM24 non possono finire così. E quindi un abbraccio da Radio Onda Rossa, appunto, all'XM24. E quindi un augurio di buona lotta. Noi ci ascoltiamo, appunto, una registrazione effettuata un annetto fa. Loro da Firenze sono i Loia, dal vivo. Questi erano i Loia, appunto, in un concerto organizzato dal collettivo Frigo Tecniche dell'XM24. Holy! mentre ora vanno già le ile. Uno dei gruppi che fanno parte del collettivo della selezione autogestita dell'XM24. E quindi con l'occasione, appunto, salutiamo i compagni e le compagne del collettivo. Loro sono le ile da capo. Queste erano le ile, appunto, dal loro Witchcore Demo da Bologna. 22:30 in questo istante. Andiamo a chiudere così la puntata di questa sera di Do It Yourself Invasion. Questo è solo un raggio, ma noi siamo qui legati, dobbiamo ancora riuscire nel fango. E quindi grazie per l'ascolto a tutta e a tutti. L'appuntamento è per il prossimo martedì, sempre dalle ore 21 alle ore 22:30 circa. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà. Un abbraccio. Allora, noi vi lasciamo con In Negazione, con Il Giorno del Sole. Poi vi lasciamo con un po' di Automatico. E poi dalle 23 Morfire. Ciao.